Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Allora, da un lato i temi oggi sono molto italiani, da un lato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Monti sul famoso ormai statuto dei lavoratori, quello che porta il nome di Gino Giugni. Insomma, ha detto con lo studio dei lavoratori si sono creati meno posti di lavoro. Poi è intervenuto anche il ministro Fornero a dire non sono in vista modifica allo statuto dei lavoratori, non sono previste adesso. La replica e il commento del segretario della CGIL Susanna Camusso, che ha detto insomma, questa è un'altra dimostrazione che questo governo non ha idea di cosa fare per lo sviluppo e per la crescita. Pare che il governo abbia esaurito qualunque spinta propulsiva alla ripetizione di un film che abbiamo già visto, non si reinventi la logica contro i lavoratori. D'accordo invece con Monti il segretario del PDL Angelino Alfano, che ha detto su Twitter Monti dice cose giuste sullo statuto dei lavoratori, la CGIL e la Camusso lo attaccano, noi e Monti sull'argomento abbiamo le stesse idee. In realtà questa però è anche la giornata in cui il Centro Studi Confindustria ha diffuso le sue previsioni. Sono giorni in cui arrivano molte previsioni sulla crescita, o meglio sulla recessione, per quest'anno e per l'anno prossimo. Ormai tutti si attestano a un calo superiore al 2%, il 2,3 dell'Istat, il 2,1 ieri del REF Confesercenti, oggi il Centro Studi Confindustria meno 2,4%, e tutti, ahimè, sono d'accordo nel dire che anche nel 2013 chiuderemo in recessione. O meglio, una recessione non così forte, però un segno meno ci sarà, meno 0,6%. La cosa che a me personalmente ha colpito di più, ma poi ne parleremo con il direttore del Centro Studi Confindustria, che mi ha colpito di più di questo rapporto, è un'analisi di carattere storico. Allora, nel 2012 i consumi pro capite registreranno la flessione più grave dal dopoguerra, cioè non c'è mai stato un periodo dal 1946 in poi in cui i consumi italiani sono calati così tanto in un anno rispetto all'altro, meno 3,6%. No, lo dico per chi continua ogni tanto a dire che non è vero, i ristoranti sono pieni, i ristoranti di un certo tipo saranno anche pieni, gli alberghi di un certo tipo saranno anche pieni, però siccome il paese non è fatto solo da una piccola parte di happy few, come dicono in inglese, di felici e contenti, ma è fatto da tutti i cittadini, i dati che noi vediamo statistici e di analisi qualitativa sono inequivocabili su questo. Il calo dei consumi c'è. Poi è chiaro che siccome ci sono in questo paese anche sacche enormi di evasione, ci sarà una parte del paese che noi cerchiamo di raccontare in vari modi con la rubrica cos'è questa crisi, che la crisi non la sente. E poi ci sono lavori protetti, cioè ci sono caste di vario genere, ma insomma, questo interessa i singoli casi, ma complessivamente il calo del 3,6% è il più grave dal dopoguerra. Ma pensate ancora che gli effetti della crisi sul PIL, in sostanza, della crisi quindi dal 2008 in poi, 2009 il primo anno diciamo di riferimento, sono superiori a quelli della prima guerra mondiale e meno dirompenti di quelli della seconda guerra mondiale, anche se probabilmente più persistenti. È un bollettino di guerra vero e proprio, quello diffuso oggi dal Centro Studi Confindustria. Ha ragione chi scrive, poi c'è molta gente che al ristorante non ci va anche se ci vorrebbe andare. Infatti a me la battuta che ogni tanto mi arriva via SMS, avete visto quest'estate, ristoranti pieni, alberghi pieni, è di un qualunquismo devastante. Ci fu il presidente del Consiglio precedente che, a mio avviso con una gaffe clamorosa, Berlusconi disse in piena crisi: ma qui si vendono telefonini, i ristoranti sono pieni, e in realtà dando l'impressione di non capire, di non percepire come stesse evolvendo la situazione. Poi abbiamo visto come vanno le cose, chiedete a qualcuno della grande distribuzione, sia alimentare che non alimentare, se le cose vanno bene o non vanno bene. Questo per quello che riguarda il rapporto di Confindustria. Poi avremo anche alcuni approfondimenti su come rilanciare il nostro turismo. Insomma, ci sono migliaia di nuovi ricchi nel mondo che non riusciamo, migliaia, decine di migliaia, a intercettare. I dati della settimana scorsa sul settore alberghiero lo dicevano lunga su questo. Primo calo da sempre ad agosto nelle presenze alberghiere, per colpa degli italiani, per colpa si fa per dire. Perché gli stranieri sono arrivati, sono cresciuti come presenze, più 3%. Però è chiaro che l'Italia deve fare di più sul turismo, cioè se la ricchezza si è spostata in Cina, in Turchia, in Brasile, in India, in Russia, noi dobbiamo intercettare questi nuovi ricchi. È inutile continuare a puntare su francesi e spagnoli che sono messi come noi, in alcuni casi anche peggio di noi. Di questo parleremo, perché se ne sta discutendo in questi minuti anche al Sole 24 Ore. Quello che sta emergendo è che manca, come sempre in questo paese, una capacità di fare sistema, cioè di non lasciare le singole regioni a promuovere in Cina la regione Marche, con tutto rispetto alla regione Marche, o in India la regione Sicilia, con tutto rispetto alla regione Sicilia, o in Turchia la regione Lombardia, vale per tutte le regioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultimo tema che toccheremo oggi è quella che si profila essere una storica fusione nell'industria aerospaziale della difesa. Il gigante franco-tedesco EADS, che è praticamente chi controlla il colosso Airbus, quello che produce gli aerei, ma civili e anche militari, sta trattando una possibile fusione col gruppo britannico Bae Systems. Ci sarebbero anche delle ricadute non da poco su Finmeccanica, che risulterebbe tagliata fuori dai grandi giochi internazionali. Non a caso Finmeccanica è il titolo che va peggio oggi tra quelle maggiore capitalizzazione, meno 5,35%. La borsa oggi è negativa di uno 0,90% complessivamente, sia a Parigi che a Milano. Francoforte invece perde lo 0,30%, l'America guadagna lo 0,20%, Londra guadagna lo 0,60%, l'euro è 1,29%. Vi dicevo però il peggior titolo a Finmeccanica, proprio sull'ipotesi che se si crea questo gigante da 37 miliardi di capitalizzazione e 70 miliardi di fatturato, superiore anche alla Boeing, Finmeccanica risulterebbe una specie di vaso di coccio tra questi due colossi mondiali. Rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio e oro, come sempre. Allora, c'è un ascoltatore che ogni volta che inizia il programma mi chiede che io mi dimetta. Caro Fabio, sono ancora qua, mi dispiace per lei. Lei non capisce perché ho citato l'evasione con i ristoranti. Ho detto semplicemente che è chiaro che quando tu sei il paese che ha il più alto tasso di evasione in Europa dopo la Grecia, 140 miliardi di euro, è chiaro che probabilmente alcune categorie di evasori totali o quasi totali la crisi non la sentono, perché quando tu riesci a ammortizzare un calo, diciamo, delle tue entrate non pagando le tasse, te credo che la crisi la senti meno. Però voglio dire, non confondiamo punte o sacche di evasione con il resto del paese che soffre, soffrono tutti, non solo i lavoratori dipendenti, anche e soprattutto gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori. Questa è la realtà, è la fotografia. Se non lo capisce, spero adesso di essere un po' più chiaro. E comunque grazie per il consiglio, Fabio. Andiamo avanti, dicevo, oro e petrolio. Per quello che riguarda il petrolio siamo in rialzo a $97,6 al barile, oro invariato a $1,730 sui mercati asiatici. Per quello che riguarda la Grecia, il Wall Street Journal oggi scrive che potrebbe avere bisogno di un terzo piano di aiuti. Nel frattempo lo spread italiano era risalito a 350 punti, poi è sceso a 346 punti, comunque a un livello non ancora accettabile, ma sicuramente migliore rispetto a un mese e mezzo fa. L'asta è andata bene, l'asta di titoli italiani, di BTP a 3 anni, ha fatto il pieno infatti il governo italiano. Noi abbiamo chiesto oggi 4 miliardi di euro di prestito, questo vuol dire emettere un'obbligazione, un BTP, che rimborseremo fra 3 anni, BTP a 3 anni. Abbiamo offerto il 2,65% di rendimento, è veramente una buona notizia in una giornata in cui le notizie buone sono praticamente assenti. Perché dico questo? Perché pensate che l'ultima volta che noi abbiamo dovuto chiedere un prestito a 3 anni, e mi riferisco a luglio, un'asta di BTP a 3 anni, abbiamo dovuto offrire per trovare dei compratori il 4,65%. Adesso abbiamo offerto il 2,65, 2 punti percentuali in meno. Ogni punto percentuale di tassi di interesse sul nostro debito vale circa 15 miliardi, non in questo caso che erano solo 4 miliardi offerti, ma per dare il senso alle proporzioni. Quindi abbiamo pagato meno per trovare qualcuno che ci finanziasse il debito, e soprattutto la domanda è stata buona, 1,5 volte l'offerta, segno che appunto, come già diceva Wall Street Journal 2 giorni fa, i fondi americani, ma non solo, sono tornati a ricomprare debito spagnolo e italiano. E io, per essere scaramantico, visto che adesso inizieremo una raffica di notizie che si concluderanno con una fotografia che vede l'Italia messa mai così male come dal dopoguerra quanto a consumi, vorrei un bel gallo per partire sull'asta dei BTP di oggi. Così siamo ridotti a commentare positivamente un'asta di BTP. Comunque, sul turismo, cosa vuol dire fare il sistema? Adesso lo spieghiamo. Vuol dire che finché sono le singole regioni a avere tutto il budget per promuovere il territorio, intanto non riusciranno mai a fare massa critica su paesi così grandi. E in secondo luogo, noi ci continuiamo a muovere in ordine sparso, cioè la regione X decide di promuovere in un posto, la regione Y in un altro, non c'è una strategia di un paese. Ma voi pensate, se in Cina, voglio dire, andiamo a promuovere la singola regione italiana, ma cosa volete che ne conoscano e ne sappiano i cinesi? Questo vuol dire, la Francia spende la metà di noi sul marketing del territorio e ottiene 2 volte, 3 volte i risultati. Vorrà dire qualcosa usare una cabina di regia unica? Secondo me sì. Inflazione in Italia confermata, il dato di agosto è risalita al 3,2%, ma soprattutto per il rincaro del prezzo dei carburanti, non perché qua ci stiamo mettendo a spendere di più perché abbiamo il portafoglio pieno, anzi l'unica inflazione che abbiamo si chiama inflazione importata, quando il petrolio costa caro e la benzina va a 2 euro, tutte le merci che viaggiano sui camion costano di più. Il carrello della spesa d'agosto, non a caso, ha fatto più 4,2%. Quindi superiore al tasso di inflazione. E la Confcommercio oggi diffonde un dato, ne parleremo dopo, per cui il caro carburante ha pesato tra 2010 e 2012 per 6 miliardi di euro sottratti ai consumi, cioè il fatto di aver dovuto pagare di più per fare il pieno e di aver pagato di più le merci che trasportavano con questo ha significato 6 miliardi in meno di consumi annui, lo 0,6% del totale. E aggiunge da Confcommercio, il 56% di questo incremento è dovuto al fisco, alle tasse, alle accise, all'IVA. Delle reazioni ai dati di Confindustria, ripeto, parleremo alle 18:15. Il presidente di Confindustria Squinzi ha detto che la situazione è molto grave, ma restiamo ottimisti, il miglioramento arriverà verso la fine d'anno, la ripresa sarà in primavera. Questa frase non deve sorprendere, perché se le previsioni sono di un meno 0,6% nel 2013, probabilmente è chiaro che arriveremo ancora frenando a inizio del 2013, però poi il recupero ci sarà. Ecco perché magari avremo un dato negativo ancora per il primo trimestre del 2013, ma poi se i trimestri successivi avranno un dato positivo, l'anno si chiuderà sostanzialmente in stagnazione, meno 0,4, meno 0,3, meno 0,6% a seconda delle previsioni. Devo dire che è fondamentale, insomma, che si placchi la tensione sui mercati, che lo Stato italiano smetta di pagare alti interessi sul suo debito per trovare compratori del suo debito, perché questo poi permette intanto alle banche di avere costi minori, ma allo Stato di avere qualche risorsa in più. Detto questo, continuiamo a raccontare la crisi degli altri, perché insomma, ci sono anche soggetti in Italia e fuori che la crisi non sanno cosa sia. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, un po' di Malox, se potete, a chi è in ascolto, perché dopo aver letto il rapporto di Confindustria che dice che nemmeno dopo la Prima Guerra Mondiale vi era stato un calo del PIL così forte, che i consumi non erano mai calati così tanto come caleranno quest'anno, nemmeno dal 46 in poi, meno 3,6% rispetto al 2011, siamo felici per la Ferrari, a dimostrazione che ci sono intere aree del mondo dove i soldi si fanno e il potere d'acquisto aumenta. La Ferrari infatti ha avuto ricavi record nei primi sei mesi dell'anno, 3.664 vetture consegnate, più 7,5%, con ricavi a 1.200 milioni, utile netto nei primi sei mesi a 100 milioni. Ma adesso veniamo alle notizie di casa nostra, a chi la crisi non la sente. Sono 18 i manager pubblici il cui stipendio supera ancora il tetto dei 294.000 euro imposto dal decreto Salva Italia. Lo ha riferito oggi il ministro Filippo Patroni Griffi alla Commissione Affari Costituzionali e Lavoro della Camera. Il dato emerge dopo un controllo che riguarda 37 amministrazioni pubbliche su 80. Allora, questi 18 manager con stipendio d'oro, immagino, dovranno riportare il loro stipendio a quanto prevede la legge, 294.000 euro lordi l'anno massimo come tetto. E voi direte, eccoli la pubblica amministrazione centrale. Certo, ma di nuovo le cose migliori, insomma, le cose peggiori ci arrivano dalle regioni, dalle amministrazioni locali, alla faccia del fatto che la regione è più virtuosa della nazione. Io qua non so da dove iniziare, perché insomma, le spese pazze dei consiglieri PDL alla Regione Lazio sono sconvolgenti. Cioè, i bonifici, da una parte i bonifici di Franco Fiorito, l'ex capogruppo PDL, per 753.000 euro, e dall'altro appunto i soldi pubblici erogati al gruppo dei consiglieri PDL della Regione Lazio, che venivano usati per i fini più disparati: cene, pranzi al ristorante, pubblicità su siti web, contributi a associazioni vicini, cravatte di Marinella, champagne. La procura ieri ha scritto infatti l'ex capogruppo, l'avete letto sui giornali, il PDL Franco Fiorito, nel registro degli indagati con l'accusa di peculato. Però andiamo a vedere che cosa è successo, che spese hanno sostenuto i consiglieri del PDL della Regione Lazio. Francesco Battistoni, ci sono i soldi erogati all'associazione Ruggero Marino Lazzaroni di Ronciglione per la promozione politica PDL, 5 bonifici, cioè Ronciglione in provincia di Viterbo, 5 bonifici per circa 50.000 euro. Poi soldi per l'associazione New Tuscia, 2.000 euro per un banner pubblicitario, il nuovo Corriere Viterbese 3.000 euro, Tuscia Web 8.000 euro tra banner e redazionali, sempre per pubblicizzare il partito con soldi pubblici. Fantastica, no? Poi Yamma SRL, i funamboli on air 4.000 euro per seguire le attività del PDL sul territorio. Cioè, i funamboli on air devono seguire le attività del PDL sul territorio, evidentemente che sono attività funamboliche. L'associazione culturale IPEN 2.500 euro, 4.800 euro a Media Live per servizi per il presidente della commissione agricoltura. Due noleggi di auto, uno per un'ora e mezza a 130 euro, buoni benzina all'IP, francobolli, una serie di pagamenti alla Majakowski comunicazione per 52.000 euro. L'esistenzialismo dei consiglieri del PDL anche a questo portava, il noleggio di una fotocopiatrice per 2.700 euro. Ma come si fa a noleggiare una fotocopiatrice e pagarla 2.700 euro? C'è il tecnico che non ci crede. Le cene al Pepe Nero di Capodimonte Viterbo, cene parche, no? Nouvelle cuisine, understatement, dalle 16 alle 100 persone a volta, con conti dagli 800 ai 6.000 euro, e anche nel ristorante Villa Torriti, l'antico casale, 76 persone, tutte voci fatte rientrare sotto la dicitura spesa per attività politica del PDL. Ma non ho finito, perché con questo vi accompagno fino al meteo a colpi di Malox. Veronica Cappellaro, eletta nel listino bloccato, anche lei PDL, oggi presidente della Commissione Cultura, a maggio 2011 chiama lo studio fotografico Luxardo di Roma per una ripresa fotografica, e vabbè, 1000 euro. E poi ricevute, bar, ristoranti, Pasqualino al Colosseo, o uno va a mangiare a Pasqualino al Colosseo e spende 17.000 euro? Ecco perché i ristoranti sono sempre pieni, hai visto un po'? Al bar Martini, cena sociale del gruppo PDL, 8.800 euro, ma non so, una mensa, una pizzeria, qualcosa di più modesto, no. Carlo De Romanis, vice capogruppo, a marzo 2012 chiede in affitto il teatro 10 e 7 dell'antica Roma Cinecittà, costo 57.000 euro. L'evento prevede la presenza di un massimo di 1.500 persone, ma non si capisce perché. Giancarlo Miele ha fatto erogare a Innovazione Territorio oltre 15.000 euro per una campagna di promozione e sensibilizzazione dei giovani sullo sviluppo delle politiche giovanili locali e regionali. Poi 8.500 euro alla GECO SRL per gestione del portale web e comunicazione, tutti questi portali. E poi a fine del 2010 spesa all'Enoteca Trucchi, Champagne, Brunello, Primitivo di Manduria, Satrico e Shiraz per un totale di 784 euro. Alla faccia! Spero non guidassero almeno. E poi alla vigilia di Natale ha comprato 10 cravate da Marinella, una sciarpa da portadocumenti per 1.200 euro. Pagamenti in contanti in entrambi i casi, però il problema è che questi soldi non erano suoi. Uno faccia quello che vuole con i suoi soldi, no? Ma Andrea Bernaudo, chiudo, è eletto con la lista Polverini, passa col PDL, tra le fatture alcune di Ottavio, che è un ristorante nel quartiere del ghetto di Roma, no? Santa Croce. Cena a due con ostriche francesi, crudi di pesce. Ah no, scusatemi, ho sbagliato io. Io pensavo che Ottavio fosse quello di Roma, che conoscevo. No, Ottavio a Gerusalemme. Cena a due con ostriche francesi, crudi di pesce, moscardini, fragolino al sale, olio e pepe, vabbè, vino chardonnay, e un totale di 300 euro in due, che voglio dire, faccia la crisi. Qua ci vuole un caparezza, vai. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Allora io vorrei invece seriamente un applauso, ma no, l'abbiamo già fatto, ma un applauso immaginario a tutti i consiglieri e capogruppo del PDL della Regione Lazio, quelli che abbiamo citato, perché in realtà con questa crisi dei consumi è grazie a iniziative coraggiose come queste che i consumi si mantengono alti, e quindi il dato non è troppo negativo. Grazie, perché tutte queste spese poi servono a mantenere i consumi del paese. Chi se ne frega se i soldi sono pubblici, non stiamo a sottilizzare. Parliamo della polemica tra CGIL e governo, poi mercati, poi la vicenda Airbus Buy System, e poi tutta l'analisi del Centro Studi Confindustria. Due risposte brevissime alla lunga lista, purtroppo era molto lunga oggi, di spese. Io non dico che siano spese effettuate dai consiglieri della Regione Lazio. Mi dispiace che fossero quelle del PDL, fossero quelle del PD, avrei detto quelle del PD, prima risposta che do ad alcuni ascoltatori. Non capisco, ma non capisco veramente, perché alcuni dicono che quanto a populismo Grillo rispetto a me è un bambino. Cioè, questo non è populismo, ci sono delle spese che uno può dire sono fatte per rappresentanza. A me sembra che spendere 17.000 euro al ristorante in tempo di crisi, ho capito, non sia così, non sia un segnale. Si può fare diversamente, cioè si chiede al paese di tirare la cinghia ai pensionati, anzi alle persone di andare in pensione più tardi, ai pensionati di stare dentro con 800 euro al mese, agli esodati di arrangiarsi sostanzialmente, a chi paga le tasse di avere il carico fiscale più alto oltre il 53%, e poi c'è una parte del paese che questa cosa non la sente. Sarà populismo, ma tant'è, ultima risposta, le do a grappolo. Chi dice perché non li invita? Perché tanto se io li abbiamo invitati molte volte, queste sono spese di rappresentanza, no? Sono spese per cui il problema non è se io non sto dicendo che non siano state spese di rappresentanza o per attività politica del PDL, voglio capire perché queste spese vengono fatte con i soldi pubblici. Fine. Avranno sicuramente avuto ragione, se c'è la legge possono farlo, ma lo trovo sbagliato. Si può anche ragionare così o uno diventa subito grillo. Parliamo adesso di Mario Monti, che ha detto insomma con lo statuto dei lavoratori in questi anni si sono fatti meno posti di lavoro. Eh sì, perché lo Statuto dei lavoratori, che lo ricordo diventò legge il 20 maggio del 1970, è quello famoso anche e soprattutto per contenere l'articolo 18, quello che disciplina il licenziamento, recentemente modificato con la riforma Fornero. In particolare ricorderete che in origine, con l'articolo 18 di una volta, il licenziamento per motivi economici prevedeva in caso di illegittimità il reintegro disposto dal giudice. Ora il reintegro può essere sostituito da un'indennità tra i 15 e i 24 mensilità. Nessun cambiamento invece per i licenziamenti discriminatori, obbligatorio reintegro, e per quelli disciplinari invece il reintegro può essere sostituito da indennità. Su questo, tra l'altro, c'è anche una raccolta di firme depositate in Cassazione, i quesiti referendari promossi da SEL, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, PDC, FIOM, CGL e Verdi, per riportare l'articolo 18 come era prima della riforma Fornero. E in realtà oggi Monti non ha parlato dell'articolo 18 in senso stretto, ha parlato dell'intero riforma del diritto al lavoro, dello statuto dei lavoratori di Gino Giugni, ha detto attenzione, quello statuto, pur essendo ispirato a difendere i lavoratori, ha creato una rigidità tale che ha generato meno posti di lavoro. Certe disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, di nuovo ispirate all'intento molto nobile di proteggere la parte più debole, ritenuta essere quella del lavoratore, hanno potuto contribuire a determinare insufficiente creazione di posti di lavoro. E poi ha detto Monti, basta, caccia le streghe su governo e banchieri. Dura subito la risposta del segretario della CGIL Susanna Camusso, ha detto a Monti, il Presidente del Consiglio non ha idea di cosa fare per la crescita. Il governo ha esaurito ogni spinta propulsiva, è la ripetizione di un film che abbiamo già visto. E siccome non vorrei che qualcuno, siccome non c'è un'idea su nulla, si reinventasse una logica contro i lavoratori. Mi pare che questo governo abbia già fatto abbastanza contro i lavoratori. È il peggiore liberismo, quello che ha teorizzato che la disuguaglianza abbia fatto crescere il mondo. Quello a cui assistiamo sono 4 anni che il mondo non sa uscire dalla crisi determinata proprio da quel tipo di liberismo. Poi nel pomeriggio è intervenuto il ministro al welfare, al lavoro, Elsa Fornero. Lascio a Monti le sue dichiarazioni, non in vista per ora altre modifiche allo statuto dei lavoratori. La riforma viene davvero, davvero incontro alle richieste degli imprenditori, alle richieste sensate, alle richieste giustificate di chi fa impresa e vuole farla in modo corretto. Questo è quello che ci ha ispirato. E poi voglio dire, è stato modificato l'articolo 18. Noi ci auguriamo, io sono fiduciosa che gli italiani capiranno, non so quanto ci vuole per decidere sull'ammissibilità o meno, non sono argomenti di mia competenza, però io dico una cosa, che sono fiduciosa che gli italiani abbiano capito che questa modifica non è contro il lavoro, ma è per il lavoro. E il lavoro è l'impresa, non ho detto la parola lavoratori, ho detto lavoro, che vuol dire anche imprese vive e vitali che il lavoro lo domandano e che lo supportano nel tempo. E poi la Banca d'Italia, altra notizia di oggi. Il governatore Ignazio Visco, intervenuto ad un convegno, ha detto: attenzione, se il fondo salva stati, quello a cui ieri la Germania tramite la Corte Costituzionale ha detto di sì e che partirà a ottobre, fosse l'unico strumento per fronteggiare la crisi, sarebbe insufficiente, cioè i 700 miliardi che in teoria ha a disposizione non basterebbero. E poi ha aggiunto: non è comunque auspicabile un ruolo di supplenza, ossia che la Banca Centrale Europea faccia da supplente all'incapacità della politica di prendere decisioni verso una maggiore integrazione dell'Europa, per esempio. Lì sappiamo che più la Francia è il problema rispetto alla Germania. Visco ha anche confermato che la manovra del governo, per quanto necessaria, ha avuto un effetto anche lì prevedibile, cioè di aumentare, perlomeno nel breve termine, la recessione, cioè di peggiorare l'andamento economico. E quanto ha detto Monti, se non ricordo male, lunedì scorso, in cui ha ammesso che le manovre da lui effettuate hanno lì per lì peggiorato il ciclo. Va bene, un abbraccio a tutti quali, a tutti gli ascoltatori che pensano che raccontare gli sprechi della politica sia demagogia, forse magari anche per questo che poi abbiamo questo tasso di sprechi. Farei notare alcune decisioni prese in Gran Bretagna con, per esempio, i membri del Parlamento invitati caldamente a utilizzare i mezzi pubblici, no? Altro che 17.000 euro del conto. Ma che volete, non siamo la Gran Bretagna. Allora andiamo sui mercati, sulla borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Borsa oggi leggermente negativa in tutta Europa, con Parigi che però ha perso l'1,20, Francoforte meno 0,40, Milano meno 1% nel finale. Di Finmeccanica, che è il caso di borsa oggi, parleremo dopo, abbiamo un approfondimento apposito. Andiamo avanti con gli altri titoli. Oggi, attenzione, c'è un annuncio importante della Federal Reserve, questa sera la banca centrale americana, infatti questa sera dovrebbe farci capire quali scenari vede nell'economia americana e quali decisioni prenderà di politica monetaria. Secondo la maggior parte degli analisti, manterrà i tassi di interesse al minimo storico almeno fino a metà del 2015. Non sappiamo se però lancerà un nuovo quantitative easing, ossia sostanzialmente l'acquisto da parte della banca centrale dei titoli di Stato americani. E come fa una banca centrale a acquistare bot o BTP, cioè i T-bond americani? Stampa moneta, è un modo come un altro per stampare moneta. Livia Zancaner, buonasera, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera. Dunque, più la Fed o più l'ipotesi che la Grecia possa aver bisogno di un altro pezzo di aiuti? Allora, in realtà gli operatori parlano di una correzione dei mercati, in quanto ritengono scontato nei prezzi un possibile annuncio di ulteriore misure a sostegno dell'economia americana da parte della Fed. È ovvio che hanno influito sui mercati anche le dichiarazioni del funzionario del Fondo Monetario Internazionale sulla Grecia, ma è soprattutto l'attenzione alla Fed e i realizzi che hanno colpito i mercati all'indomani dell'ok della Germania al Fondo Salva Stati. Tra l'altro qualche realizzo ci poteva stare, penso, da alcune banche, ma non solo. Non a caso la Pop Milano perde il 3,5%, il Monte dei Paschi il 3,30%, Unicredito il 3% come la Popolare Emilia Romagna, il Banco Popolare cede il 2,5%, Ubibanca pure, Intesa il 2,30%, ma negativa oggi per esempio è anche A2A meno 3,60% e Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 2,60 anch'essa. Vorrei parlare però di un titolo che da ieri che va molto male, Sopaf, oggi è arrivato a 5 centesimi di euro per azione, meno 13%. Sì, allora il titolo perde terreno da qualche giorno. A penalizzare l'azione è stata la richiesta di fallimento al Tribunale di Milano da parte di Unicredit. Oggi il titolo ha perso il 13%, ieri aveva perso il 17%, quindi continua comunque a essere penalizzato dalla richiesta di fallimento da parte della banca. Ancora Diasorin invece oggi bene in borsa, sono pochi i titoli positivi, Campari più 1%, Ferragamo più 0,80 come Luxotti. Cali stanno un po' recuperando nel lusso dopo le botte di questi due giorni, Livia, vero? Sì, il settore del lusso recupera anche Diasorin, e per quanto riguarda Diasorin ci sono i giudizi positivi degli operatori che rivalutano in generale tutto il settore, grazie soprattutto al contesto più favorevole negli Stati Uniti e una maggiore esposizione ai mercati emergenti. Inoltre, secondo gli esperti, le stime del mercato su Diasorin tengono già conto dei rischi possibili sui prodotti, ma non comprendono i risultati positivi che potrebbero arrivare da qualche settore, in particolare da quello della diagnostica molecolare, ed è per questo che oggi il titolo, in una giornata all'insegna delle vendite per Piazza Affari, ha guadagnato terreno. Hanno guadagnato in particolare lo 0,42%. Parliamo anche di Tiscali e di Edison, ancora sull'arbitrato, e una cosina piccola sulla Roma, perché Paolo Fiorentino, per esempio, ha negato, vice direttore generale di Unicredit, ha negato che si stia pensando di delistare, cioè di levare dalla borsa il titolo Roma Calcio. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, Livia Zancaner, Tiscali da un lato e Edison dall'altro. Sì, allora, Tiscali continua il rally sul mercato, tornano i rumor su possibili movimenti nell'azionariato. Ricordiamo che l'unico azionista rilevante al momento di Tiscali è Renato Soru, col 17% circa. In particolare sono tornate le voci su un possibile interesse di Tre Italia, ma la società Tiscali non ha comunque commentato, perché non usa commentare i rumor di mercato. Per quanto riguarda Edison, le risparmio sono salite ancora, hanno guadagnato oltre l'8% dopo il più 13% della vigilia, sempre grazie alla vittoria nell'arbitrato col Qatar sui contratti del gas. Grazie infatti a questa vittoria il gruppo va un contributo aggiuntivo in termini di margine operativo lordo per il 2012 di 450 milioni di euro. Tra i titoli segnalo che il peggiore è, oltre a Sopaf, Borgo Sesia, meno 9,70%. Tra i migliori, oltre a Edison, c'è anche Sintesi, più 12,80%. Direi per il resto poco altro, ancora qualche variazione percentuale ve la do su Atlantia, meno 2,40%, ma anche Telecom Italia, meno 2%, come Buzzi Unicem, il 2,20% lo perde Mediaset, il 2% è il calo anche di Mediolanum, l'1,80% quello di Pirelli e di Mediobanca e di Exor, Generali meno 1,30%. La vicenda più importante però riguarda Finmeccanica, meno 5,35%. Di questo parliamo con il nostro prossimo ospite. Intanto però grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Fatemi dare una risposta però ancora sul tema degli sprechi. Abbiamo raccontato gli sprechi delle regioni, anche del PD, di qualunque regione, del nord, del centro, del sud. Mi dispiace se questa inchiesta riguarda i consiglieri del PDL del Lazio, non ci posso far niente. Dopodiché, e devo dire che altri consiglieri del PDL di altre regioni italiane sono indignati quanto sottoscritto per questa cosa, perché stanno scrivendo, quindi non è un problema di appartenenza politica. Due, a chi dice, ma insomma, secondo lei invece spendere migliaia di euro per le salsicce per la festa dell'unità non è uguale? Allora, se si scopre che sono soldi pubblici, il ragionamento è uguale. Se sono soldi privati, cioè del partito, ma possono fare quello che vogliono, spenderli per i manifesti, per le salsicce, per il caviale, non me ne frega niente. Il problema è che questi sono soldi che i consiglieri ricevono per l'attività politica, soldi dei cittadini. In una regione che ci ha messo un anno, l'abbiamo raccontata la vicenda, a tirare fuori i soldi per l'ospedale più importante che c'è a Roma e nel Lazio per bambini e adulti. Volete che diventi veramente demagogico? Bambini e adulti con seri problemi psicomotori. C'erano gli infermieri che non venivano pagati da mesi, ve lo ricordate la vicenda? Allora, e poi scopri che i soldi per i consiglieri, per i gruppi consigliari, anche fatti da un solo consigliere regionale, la governatrice Polverini li ha. Polverini! Va buono. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Mi stavo arrabbiando con la regione Lazio. Ti ho sentito. Scusami. E poi adesso invito gli ascoltatori quelli che dicono che sono populista a scrivere in quali ristoranti dovrebbero andare a mangiare i consiglieri. Magari si può fare anche una cosa un po' più modesta. Che timore c'è su Finmeccanica dopo che si è sparsa una voce insistente, ossia che il colosso franco-tedesco Airbus IDS stia trattando la fusione col gruppo britannico Bysystem? Nascerebbe un gigante da 37 miliardi di capitalizzazione e 70 miliardi di fatturato, cioè più grande della Boeing, che ne fa 53 miliardi di fatturato. Finmeccanica di suo capitalizza 2 miliardi e 2 a 17 miliardi di fatturato. Gianni. Intanto, se diciamo a completamento di queste cifre, sì, che la fusione tra società che sono in Francia, in Germania e ADS, in Gran Bretagna BAE, poi c'è un pezzo spagnolo di ADS e in più la BAE, che è una società inglese ma in realtà è americana come gran parte dell'attività, vediamo che allora l'Italia è di fatto circondata, resta solo il mare, l'Austria, la Germania, è circondata dai tre paesi più grandi d'Europa insieme all'Italia. E quindi chiaramente c'è una sproporzione, 220.000 addetti contro i 70.000 di Finmeccanica, ma soprattutto c'è un legame anche con i governi, perché nel mercato militare aeronautico c'è anche una componente commerciale che segue più un andamento di mercato, ma nel mercato della difesa le decisioni fondamentali le prendono i governi, che sono anche i grandi clienti dei prodotti e delle armi. Certo, i ministeri della difesa, quindi, sono i grandi clienti. Esatto, certo. E quindi l'unione di tre pesi massimi europei crea un isolamento per Finmeccanica. Soprattutto però l'aspetto che a mio avviso denota proprio la sproporzione e quindi la mossa penalizzante per il gruppo, come mi hanno detto diversi manager del gruppo, anche se oggi Finmeccanica, il vertice, ha fatto un comunicato in cui distensivo, dice, sì, difensivo, peraltro non ha reagito ieri, evidentemente colta di sorpresa, e che nel fare questa mossa fulminea, è stato chiaramente un blitz, pare che Finmeccanica, ma potremmo togliere i pari, non sia stata neanche, come dire, considerata o interpellata. Questo dà l'idea anche della debolezza e della marginalità del gruppo in questo momento, per cui cercare anche di recuperare o di rispondere in qualche modo, perché poi questi fatturati, questi addetti vanno scorporati nelle linee di prodotto, quindi ci può essere qualche settore in cui uno è meno debole o qualcuno in cui proprio uno non esiste. Ma un esempio, uno dei prodotti che spesso anche ricordiamo quando ci sono i saloni aeronautici europei, cioè l'Eurofighter, l'aereo da caccia Eurofighter, che è il caccia europeo, esatto, quello che costa tantissimo. Costa tantissimo, che comunque gli europei tentano sempre di vendere in contrapposizione agli americani, anche se non riescono a venderlo al di fuori dei quattro paesi committenti. C'è dentro anche l'Italia. Ora gli altri tre componenti del consorzio, cioè spagnoli, sì, e tedeschi già in EADS, inglesi nella BAE, sono tutti insieme e l'Italia al 20%. Ecco, io vorrei però, Gianni, vorrei capire se c'è una debolezza a questo punto di peso anche politico di Finmeccanica da quando sono cambiati i vertici, perché mi ha molto inquietato quando tu raccontavi. Vorrei concludere l'approfondimento su Finmeccanica, o meglio, su cosa potrebbe capitare a Finmeccanica se andasse in porto questa fusione tra il colosso franco-tedesco nel settore aerospazio e difesa, EADS, cioè la casa madre di Airbus, e il gruppo britannico Bysystems. Gianni Dragoni, la cosa che più mi ha impressionato, cioè i due possono fare quello che vogliono e Finmeccanica risulterebbe a questo punto tagliata fuori, tant'è che oggi c'è chi scrive che l'unica possibilità per Finmeccanica sarebbe quella di Thales, quindi cercare un'alleanza con Thales. Però a me è impressionato quanto tu raccontavi, cioè che nemmeno è stata presa in considerazione l'ipotesi di una fusione con Finmeccanica. Ora, qui c'è un problema forse anche di governance. Ai tempi di Guarguaglini se n'è andato, c'è un'inchiesta della magistratura, lui non ha mai ricevuto un avviso, se non ricordo male, però c'era un'inchiesta della magistratura. Ma ai tempi di Guarguaglini, lasciando fuori la magistratura, vuoi per i rapporti con il governo Bush, vuoi per tanti motivi, Finmeccanica aveva fatto acquisizioni importanti, la Westland per esempio, DRS Technologies, pagata carissima dagli americani, cioè era un player che stava alla pari con gli altri. Secondo te come mai adesso non è stata nemmeno presa in considerazione? C'è stata effettivamente un'involuzione, il cambio della guardia Guarguaglini con Orsi, che aveva fatto degli ottimi risultati all'Augusta Westland, un'azienda che comunque insomma, ha già un prodotto eccellente, elicotteristica, avviene nel maggio del 2011, dopo circa un anno in cui Guerguedini è indebolito da indagini giudiziarie, che però lui non è mai stato interrogato, non mi sono mai stati contestati fatti specifici, e ora ancora questa indagine è ancora a quel punto, tant'è che il suo avvocato ha chiesto l'archiviazione, stanno aspettando che decidano i magistrati. Orsi è nominato dal governo, da un governo diciamo che poi non c'è più, perché lo nomina Tremonti, lo spinge la Lega, è amico anche dell'UDC. Comunque certamente si è avvertito con quelli che sono stati anche alcuni errori, alcuni eccessi, diciamo, dello splendore dell'epoca Guerguedini, ma anche un'espansione industriale che ha fatto guadagnare visibilità al gruppo, come hai ricordato, con l'operazione che hai ricordato, e adesso serve una strategia più di, come dire, ridimensionamento, dismissione di attività nel civile, tra cui l'Ansaldo Energia, che però è un grande gruppo e che quindi, se Orsi, come vuole fare, la vendesse ai tedeschi della Siemens, potrebbe essere un altro impoverimento del settore industriale italiano. Probabilmente Orsi è più, diciamo, abituato alle performance dell'Augusta Westland, degli elicotteri, certo, che il resto del gruppo non riesce ad avere, ma non riesce ad avere perché non ha lo stesso livello diciamo di integrazione industriale. E io credo che sia rimasto un po', diciamo, da quello che si può percepire dall'esterno, rimasto un po' chiuso in questi meandri, anche nel fare una sorta di spoil system sistematico di molti dirigenti, sì, che erano nell'epoca Guerguedini, ma che non erano, diciamo, compagni di cordata. Ha allontanato 55 dirigenti, mi sembra che Finmeccanica si è avvitata a sua volta, è ricaduto in indagini giudiziarie, sì, quindi anche lui è stato indagato, e quindi la Finmeccanica non ha fatto passi avanti, ma è rimasta ferma, allora, non ha guardato molto fuori, e forse per forse questo è meno interessante lo spoil system, che vuol dire cambiare i dirigenti chiave quando cambiano i vertici, è stato fatto in maniera un po' eccessiva. Io dico una cosa, adesso la magistratura faccia il suo lavoro, ci mancherebbe, però Finmeccanica con Eni, Enel, insomma, è uno dei pochi gruppi italiani partecipati dallo Stato che se la gioca bene sui mercati internazionali. Manca solo che questo paese perda anche la sua capacità di produrre componentistica e anche prodotti finiti nell'aerospazio e difesa. Sarebbe veramente un errore strategico anche per il futuro. Grazie a Gianni Dragoni. Noi invece adesso torniamo sul tema di apertura, e quindi le previsioni, ma nere forse nemmeno, nerissime, del Centro Studi Confindustria, ma non tanto per l'anno in corso, ma quanto sulla serie storica. La cosa che più mi ha impressionato è il raffronto con un calo dei consumi che non c'era mai stato dal dopoguerra e un danno sul PIL da questa crisi che non si era verificato nemmeno dopo la Prima Guerra Mondiale. 349-238-6666 per i vostri SMS. Confermato, meglio dire, rivisto a ribasso il PIL per quest'anno, ma soprattutto i consumi meno 3,6%, dato peggiore appunto dal dopoguerra. Nel 2013, pensate, secondo il Centro Studi Confindustria, torneranno sui livelli del 97. In un anno si sono creati 758.000 disoccupati in più. Il PIL pro capite, cioè quanto ognuno di noi produce come PIL, è ai minimi dal 97, con un calo di 4.200 euro all'anno di PIL a testa. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. Veramente, ripeto, al di là del dato sul PIL dell'anno e sul 2013, su cui poi ti chiederò anche qualcosa, il dato che voi date è impressionante sul fronte della serie storica, cioè, ma veramente non c'era mai stata una crisi con effetti così pesanti, e voi dite anche della Seconda Guerra Mondiale li ha avuti più pesanti, ma questi saranno più persistenti? Beh, perché dovremmo raccontare una favola, una cosa che non è vera, però quello che mi preme dire è che è avvenuto un aggiustamento, e da questa base bisogna prendere e rimboccarsi le maniche per ripartire. Abbiamo, diciamo, fatto fuori, tra virgolette, un'altra droga che per tanto tempo ci aveva mantenuto alto gli standard di vita, la droga del deficit debito pubblico con il risanamento avvenuto, e questo ha comportato inevitabilmente una revisione anche dei comportamenti di spesa. Tra le notizie che avete dato, quello dell'aumento dei disoccupati, in realtà è una notizia tra virgolette da leggere in chiave positiva, perché il numero degli occupati non è cambiato e il fatto che tante persone in queste difficili condizioni economiche, quindi tempi di recessione, quando normalmente non è abbondante la domanda di lavoro, si dia da fare in modo così attivo per trovare un'occupazione, significa che cambia la mentalità. Non aspetto come dire, di trovare la migliore occasione, mi do da fare per trovarla io, e questo diciamo è positivo. Sarebbe invece sbagliato una reazione del tipo è una tragedia, siamo stati sconfitti, rassegniamoci, non c'è più niente da fare. Invece penso che questo paese abbia delle potenzialità enormi, inespresse, debba ancora lavorare moltissimo in termini di riforme che riguardano il funzionamento della macchina pubblica, che riguardano la meritocrazia anche dentro la macchina pubblica, nel settore della scuola per esempio, ma anche diciamo nei rapporti tra fisco e cittadini, fra fisco e imprese, fra uffici pubblici e cittadini in generale. C'è diciamo molto da lavorare ancora sulle liberalizzazioni nel settore dei servizi, c'è da lavorare dentro le imprese per aumentare la loro capacità di stare sui mercati esteri, che puntando su innovazione, dimensione, ricerca, c'è da lavorare moltissimo sul capitale umano, perché purtroppo abbiamo un tasso di abbandono degli studenti molto elevato e abbiamo diciamo una percentuale di laureati molto molto più bassa di quella dei nostri concorrenti. Veniamo al 2013, c'è qualche buona notizia, o meglio, voi stimate il pareggio di bilancio strutturale nel 2013, stabilite però che resta il ciclo di profonda recessione. Non sono ancora netti i segnali di inversione, cioè quando si andrà dalla recessione a una ripresa economica, la ripresa slitta anche un po', però nel 2013, se ho ben visto, dovremo fare un meno 0,6%, che rispetto al meno 2,4% di quest'anno, insomma, è già qualcosa. Questo vuol dire, Luca, che negli ultimi trimestri del 2013, cioè da metà anno più o meno in poi, vi attendete un po' di crescita? Una leggera crescita intorno allo 0,2%, diciamo a cominciare dalla primavera fondamentalmente. Noi appoggiamo questa diciamo previsione su un'inversione del ciclo mondiale che ha rallentato moltissimo negli ultimi mesi a causa dell'incertezza legata alle elezioni americane e anche al cambio di leadership cinese. E al fatto che funzionano le misure varate a livello europeo, soprattutto la decisione della Banca Centrale Europea, in modo che questo allevi il credit crunch che è molto forte nel nostro paese, il fatto che ci sia una minor pressione del risanamento dei conti pubblici, nel senso che il miglioramento del saldo strutturale atteso per l'anno prossimo è meno brusco di quello di quest'anno, e questo significa fondamentalmente appunto che come dire, il drenaggio di risorse dell'economia rallenta. Ci attendiamo anche una reazione da parte delle imprese e dei consumatori nel senso di nella direzione di una maggior fiducia che viene da tutti questi elementi. Luca Paolazzi, per concludere, se io titolassi, diciamo che dopo il vostro rapporto, che la finanza speculativa, la degenerazione della finanza mondiale è stata peggio di una guerra, e in questo includo anche l'attacco all'euro e se vuoi anche la cattiva gestione, la cattiva difesa dell'euro, sbaglierei titolo? No, è corretto. Nei termini di PIL, di aumento dei debiti pubblici è corretto. Per fortuna non ci sono stati i danni umani e materiali che una guerra comporta, le tragedie che una guerra comporta, assolutamente. Però, però in termini economico c'è, e il problema è che di solito dalla guerra si esce poi con almeno dalla seconda guerra mondiale, quando furono fatte le corrette politiche nei confronti dei vinti, si uscì con la ricostruzione e diciamo con un rapido recupero dei livelli di PIL. Ecco, questo qui non si vede. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Numerose le reazioni a questo rapporto, a partire dal presidente Confindustria. Di nuovo in diretta, sì, dice un ascoltatore, ci sono purtroppo stati anche i morti, non dimentichiamoci i suicidi, figuratevi, abbiamo fatto anche un'iniziativa che si chiamava e si chiama Disperati Mai, su cui torneremo, lo dico a quelli che ci scrivono, non ci siamo dimenticati e ci mancherebbe della cosa, però è ovvio che rispetto al dramma umano, alla tragedia umana di una guerra, questa non è una guerra, dal punto di vista però dell'impatto economico, la bolla finanziaria, la speculazione finanziaria e l'effetto domino che poi ha portato, e quindi blocco dell'attività produttiva, aumento della disoccupazione, crollo dei consumi in questo ordine di sequenza, ha avuto effetti peggiori della prima guerra mondiale sull'Italia, e limitiamoci all'Italia, e con un calo dei consumi che non si vedeva dalla fine della seconda guerra mondiale, meno 3,6% quest'anno. Non rispondo più alle polemiche su chi dice che abbiamo fatto populismo sui consiglieri della regione Lazio, a chi mi dice non parlate mai delle regioni di centro-sinistra, ma guardate, a fine luglio abbiamo dato ampio spazio alla notizia dell'avviso di garanzia per Vasco Errani, governatore dell'Emilia Romagna, per la vicenda di un finanziamento di 1 milione di euro erogato quando era presidente della regione alla cooperativa presieduta dal fratello Giovanni Errani, Terre Emerse, per cui quando ci sono notizie le diamo e basta. E invece adesso torniamo ai commenti su questi dati previsionali, appunto dopo il rapporto del Centro Studi Confindustria. 349-238-6666 per i vostri sms. Presidente Confindustria Squinzi dice: la situazione è molto grave ma restiamo ottimisti, come già ci anticipava prima Luca Paolazzi, il miglioramento arriverà verso la fine dell'anno, una ripresa timida in primavera, anche, aggiungo io, ricordando il commento di Luca Paolazzi, perché dovrebbero svilupparsi gli effetti benefici delle decisioni prese dalla Banca Centrale Europea e dal fatto che anche la Germania si è accorta che così non si riusciva ad andare avanti e si stava bruciando le penne anche lei quanto a ripresa economica, eh? E poi il commento di Squinzi intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi. Purtroppo i dati ci confermano che la situazione è molto grave, ci sarà un miglioramento, ma sarà un miglioramento lento, che verrà verso la fine dell'anno e nel corso dell'anno prossimo, anzi direi più nella seconda parte dell'anno prossimo. Quindi purtroppo anche ritengo che verranno, emergeranno le tante situazioni difficili che ci sono, non solo nei casi che tutti conosciamo e che sono ampiamente mediatizzati, ma anche in quelle migliaia di piccole e medie imprese che stanno soffrendo moltissimo. Dobbiamo, noi imprenditori, poi siamo ottimisti per definizione, altrimenti non faremo gli imprenditori. Sicuramente vediamo, soprattutto nel corso del 2013, un arresto della caduta. Purtroppo nel terzo e quarto trimestre di quest'anno questo non sarà ancora effettivo. Da lì io penso che possa ripartire una ripresa, anche perché poi dovremmo poter beneficiare di tutta una serie di condizioni al contorno, in modo particolare i provvedimenti presi per un contenimento dello spread e quindi il costo del nostro debito pubblico. Qual è la ricetta di Confindustria per rilanciare la crescita? Sono tantissime cose che si possono fare. Ricordo che nel mio programma quadriennale c'era soprattutto la semplificazione normativa burocratica del paese, però al di là di questo credo che tutti dobbiamo renderci conto della difficoltà in cui ci stiamo dibattendo e anche pensare, in parole povere dobbiamo anche mentalizzarci che per uscire da questa crisi dobbiamo tutti lavorare di più. Ma bella la domanda di alcuni ascoltatori che dicono: ma se questa crisi è stata peggio di una guerra, chi l'ha vinta sta guerra? Ma io non so chi l'abbia vinta, a parte che secondo me non è ancora finita, però sicuramente chi si è fatto poco male sono le banche d'affari americane, anglosassoni, ma non solo, anche qualche banca d'affari giapponese, tedesca, quelle che la crisi l'hanno generata, perché ne sono uscite subito. Hanno ripreso a fare utili già nel 2009, non c'è uno straccio di legge in nessun paese, a partire dall'America di Barack Obama. Obama, il coraggio. Una legge che divide l'attività retail dall'attività di speculazione finanziaria, cioè tutto è rimasto uguale, no? Alla fine si mettono a speculare anche sui derivati di origine, con i derivati sui prodotti alimentari di base, ci guadagnano pure, ma no? Loro la guerra manco l'hanno vista. L'hanno creata, armatevi e partite. Armiamoci e partite. Vabbè, e poi la proposta che è arrivata dal presidente Confindustria Squinzi, ha detto che bisogna trovare un accordo che vincoli non solo l'attuale governo e Parlamento, ma anche quelli dopo, per far tornare a crescere il paese. La preoccupazione è che dopo le elezioni, se il governo, aggiungo io, dovesse essere politico, cioè, si rischi di mollare la presa sul risanamento. Sentiamo Squinzi su questo. Qui si sta discutendo se l'Italia ce la farà da sola oppure avrà bisogno dello scudo. Io dico una cosa molto semplice e pragmatica: il paese, tutto il paese, deve fare le cose che servono per tornare a crescere. E le cose che servono per tornare a crescere sono le stesse che peraltro ci chiede anche l'Unione Europea. Quindi tanto vale dire subito tutti quanti che ci impegniamo a fare queste cose e a firmare un accordo che vincoli non solo l'esecutivo e il Parlamento attuale, ma anche quelli che verranno dopo le elezioni della prossima primavera. Possiamo considerare un programma di riforme deciso insieme e concordato con la Commissione europea e la Banca Centrale europea, scandito da scadenze per verificare i progressi. Allora, se tutti siamo d'accordo, tanto vale sottoscrivere il memorandum d'intesa, far scattare lo scudo antispread, avere tassi di interesse molto più bassi per lo Stato, ma anche per le imprese e per le famiglie, diminuire i sacrifici imposti dalla crisi e accelerare i tempi di uscita da essa. Cioè, in sostanza, dice Squinzi, e propone Squinzi, presidente Confindustria, i partiti prima delle elezioni firmino un memorandum in cui di riforme, di attività che comunque faranno perché ce le chiede l'Europa e perché sono garanzie anche per l'Europa e per chi deve investire in Italia, e a quel punto un accordo e un programma fatto assieme all'Unione Europea e con la Banca Centrale Europea che poi continui il percorso, diciamo, di risanamento. Altrimenti, aggiungo io, se il governo che vincerà, se il partito che vincerà non sarà credibile, ripartiremo col balletto degli spread, tanto le stesse cose dovrai farle, ma ti costeranno molto più care e con molti più danni nel frattempo. Abbiamo però una buona notizia in questa puntata, proprio nel finale, pochi istanti fa, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che è necessario riportare gli spread a livelli normali. E siamo d'accordo pure noi, e con questo ringraziamo Angela Merkel, ringraziamo chi ne ascolta, auguriamo buona serata e ci risentiamo domani dalle 17 in poi.